fisso il buco per riflettere, per scommettere su domani, sui guadagni della vita. Visioni mistiche con fasi critiche, chi parla pampera per stare in mostra nella città degli asteri, sbevendo la pozione diventa tutti forti, tutti fatti subiti la notata tipica. Vola via con la bevanda gialla, si gira, c'è chi se la tira, chi calcola, passa largo per paura, un altro carico di inerzia. Arriva la dose quotidiana, si avvicina, vicina la fine della corsa, chiusi in trappola, un altro sbagliacuccia, la scusa è solita, sta chiusa in scatola, ermetica, la sostanza innocua è già finita, calma l'effetto, si torna deboli, spiccioli di tempo ormai passata ad osservare il volto intorno, uno sbadiglio ed è già giorno. Argento intenso, voglio frutti di bosco, addosso adesso voglio caldo d'agosto, pazzesco, se per modo io me ne esco, portami lontano dal tuo mondo che ci esco. Argento intenso, voglio frutti di bosco, addosso adesso voglio caldo d'agosto, pazzesco, se per modo io me ne esco, portami lontano dal tuo mondo che ci esco. Mira, mal di testa, giacca in pelle, mani in tasca, voci passionali come gatti morsicandosi, aristocratici grandi, sopra pelle, sotto pelle, più sensibili grezzi, cuscinetti per atterraggio, un tempo dolce al giorno d'oggi, risentimenti mi fraintendi, mi tagli in fette sottili, ti condisci, mi limone sale e fai le parti, difficoltà in piccoli mestoli, scandali sempre aperti al pubblico, splendi, hai fatto giusto, orchestra di fischi, lettere in rosa e nero, mimosa morbida subita da pianista tiepida, c'è troppo sonno, si cene a casa come sfida che si sfredda, manette d'argento su piste da ballo non torneranno chiuso, e ne ho fatto un ciondolo, il nostro simbolo in promozione, il nostro nuovo singolo dall'imminente album di produzione Rondini, volume 3, stagione fasce 3, per tutti diamo i numeri, e un terno secco sulla ruota di nuoro, uno non fa testo, due non sono il massimo, tre che mi accollassero bevendo questo suono. Argento intenso, voglio frutti di bosco, addosso adesso voglio caldo d'agosto, pazzesco, se fai modo io me ne esco, portami lontano dal tuo mondo che ci esco. Argento intenso, voglio frutti di bosco, addosso adesso voglio caldo d'agosto, pazzesco, se fai modo io me ne esco, portami lontano dal tuo mondo che ci esco. Portami lontano dal tuo mondo che ci esco. Dal tuo mondo.